L'Evangelo per radio. Preghiere precise. Desidero leggere, amici ascoltatori, un episodio della vita di Gesù come lo troviamo nel Vangelo di Luca. Ora avvenne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada, mendicando, e udendo la folla che passava domandò cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che lo precedevano lo sgridavano perché tacesse. Ma lui gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi tu che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Recupera la vista! La tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante recuperò la vista, e lo seguiva glorificando l'Iddio. E tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio. Ogni volta che leggiamo negli Evangeli dei fatti come questo che ho letto ora, noi impariamo sempre qualcosa, una lezione. L'insegnamento di oggi è quello di essere precisi nelle preghiere. Abbiamo visto che il cieco gridava, e gridava da molto tempo nonostante che la gente glielo vietasse. Sì, arriva a gridare a Dio, continua a farlo anche se in giro qualcuno lo deride. Se tu oggi che stai ascoltando senti il bisogno di Dio, se ti rendi conto che sei cieco spiritualmente, cioè non comprendi questa vita, non sai dove vai, non sai cosa ci è nell'aldilà se non ne sei certo, benché ti abbiano sempre insegnato che ci è l'inferno e il paradiso, ebbene grida al Signore. Lascia stare l'opinione pubblica, lascia stare i tuoi amici che ti dicono di non badare a queste cose che essi definiscono sciocchezze, ma come il cieco grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù sapeva di che cosa aveva bisogno quell'infelice ed era pronto ad accontentarlo. Ma prima di rispondergli, gli rivolse una strana domanda, gli chiese: «Che cosa vuoi tu che io ti faccia?» Strana domanda. Non aveva forse visto che era cieco? Non aveva forse visto che quell'uomo aveva bisogno della luce negli occhi? Ebbene, Signore Gesù gli chiede di che cosa ha bisogno. Possibile? Eppure una domanda del genere non ce la saremmo mai aspettata proprio dal Signore. Gesù, egli che conosce ognuno e conosce quindi quello che ciascuno è nel cuore dell'uomo. Ma Gesù l'aveva fatto perché voleva che il cieco specificasse il suo desiderio, poiché in fondo egli poteva anche chiedere del denaro, dal momento che mendicava. Anche oggi il Signore pone la stessa domanda. Se tu stai invocando il Signore, se stai pregando il Signore, egli ti chiede: che cosa vuoi che io ti faccia? E te lo chiede perché egli ha il desiderio di rispondere con precisione a ciò che tu gli chiedi. Le nostre preghiere non devono essere un appello vago alla misericordia di Dio, ma devono essere una richiesta di soccorso specifico. Non è che Gesù non senta o non capisca ognuno dei tuoi pensieri. Se egli ti esorta a pregare in tale maniera, cioè preciso e conciso, lo fa per il tuo bene. Egli vuole che tu ti renda conto esattamente di ciò che ti manca. Una richiesta netta e precisa ci dà la possibilità di constatare che le nostre preghiere sono d'accordo con la parola e la volontà di Dio, e di giudicare anche il grado della nostra fede. Quanta gente rivolge delle preghiere a Dio, ed esse non sono nella sua volontà. Quanta gente prega il Signore: «O Signore, benedicimi, ho bisogno di te», e sotto sotto intendono che hanno appunto bisogno di denaro, che hanno bisogno di star meglio. Non è questo quello che il Signore vuole, ma se tu gli rivolgi una preghiera precisa: «O Signore, illumina i miei occhi affinché io comprenda quello che tu vuoi. Signore, fammi conoscere la tua volontà. Signore, salva l'anima mia dalla perdizione». Ebbene, simili preghiere hanno sempre un esaudimento preciso, e allora scoprirai che Dio è il Dio che risponde quando siamo precisi. Se il Signore fosse presente con il corpo nei luoghi dove si prega, ancora oggi egli alla fine di certe preghiere direbbe: «Insomma, che cosa vuoi tu che io ti faccia?» Quindi, sia che gli confessiamo i nostri peccati, sia che gli esprimiamo i nostri bisogni, sia che gli diciamo il nostro amore, la nostra fede o la nostra volontà di consacrarci a Lui, dobbiamo farlo con chiarezza. A richieste precise corrisponderanno esaudimenti precisi, e come il cieco, seguirai allora il Signore Gesù, e tutti quelli che ti circonderanno vedranno il miracolo che Dio ha compiuto nella tua vita.